RadioTube Social Village di Marta Cagnola. Eccoci insieme per l'ultimo sabato in diretta di RadioTube Social Village e Social Network. Ovviamente l'ultimo sabato in diretta prima di riprendere poi il 9 gennaio. Io no, non è che mi prendo tantissime vacanze, me ne prendo più degli altri. No, io vi tengo compagnia con i giornali radio, sarò in redazione ancora per una settimana. Quindi di me non vi liberate fino al 27 di dicembre. Però poi per due settimane RadioTube va in vacanza. Ma non preoccupatevi, perché non solo ci sarà il meglio di RadioTube, ma ci sarà anche il meglio quotidiano di RadioTube. Quindi ogni mattina alle 10.30, proprio per non farvi sentire la mancanza. Ovviamente sto scherzando, cioè, avrete paura dopo un po' di trovarmi anche nel frigo quando l'aprite, sarò dentro che vi mangio tutta la spesa. Scherzi a parte, appunto, oggi l'ultimo sabato in diretta del 2020, 349-238-6666 numero per gli sms, per i whatsapp e poi per contattarmi sui social, @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. Tanti gli argomenti di oggi, parleremo moltissimo di musica e di televisione nella prima ora e poi nella seconda ora ovviamente tutta l'attualità della rete e dalla rete. Anche qui parleremo tanto di musica, tanto di televisione, ma non voglio svelarvi troppo. Io partirei con il primo ospite e per introdurlo, vabbè, ascoltiamo, dai, torniamo un po' indietro nel tempo, così. Le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine, le circostanze, bevi se vuoi ma fallo responsabilmente, rimetti in ordine tutte le cose, lavati i denti e non provare invidia, non lamentarti che c'è sempre peggio, ricorda che devi fare benzina, ma sono solo io. No, allora questa, stavamo ridendo adesso, io, Alessandro Schierano e la nostra Roberta Frisani in regia, ma no, fa strano col testo originale, perché noi ormai cantiamo solo le brutte intenzioni e la maleducazione, e non lo so, è proprio strano. Questo era il testo originale di Sincero di Bugo featuring Morgan, che era stato il grande dramma di Sanremo 2020, ma è già il grande dramma di Sanremo 2021, perché hanno già litigato, è già successo di tutto. Ne parleremo nella seconda ora, perché ovviamente si parla molto di questo argomento in rete, ma abbiamo già la lista dei big, oltre che dei giovani, di Sanremo 2021 che aspettiamo con ansia. Andiamo a commentare la lista? No, andiamo a trovare un po' di quelle curiosità che solo il nostro ospite ci può tirare fuori. Eddie Anselmi, il nostro super esperto. Ciao Eddie, bentornato. Ciao Marta e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24. Dopo questa sigla sembrava, poi uno sospetta che arrivasse Bugo. Dove è Bugo? No, invece dove arriva Bugo? Bugo? No. Ma tra l'altro ce l'abbiamo avuto ospite più volte, Bugo, che è una persona deliziosa. Poi parleremo nella seconda ora di quello che è successo, delle liti. Ma dai, con te voglio, siccome tu sei una miniera di statistiche, di curiosità, andiamo un po' a vedere, perché sai, poi noi ci chiediamo 26 big quest'anno, ma è un record? Solo tu ce lo puoi dire, Eddie, è un record 26, allora, big? La risposta è sì, è un record eguagliato. È un record eguagliato, non è un record assoluto, però è un record eguagliato, ovvero 26 canzoni nella sezione big, quando ci sono, insomma, le due sezioni a Sanremo, c'erano stati, sì, una sola volta nel 1988. Vinse Massimo Arniere con Perdere l'amore, ultimo arrivò Alan Sorrenti, in mezzo un sacco di big, appunto, un sacco di persone. E c'erano anche Francesco Nuti, figli di Bubba, Marcella, Toto Cutugno, Fausto Leali, Pino Di Capri, insomma, erano Loredana Bertè, era un festival anni 80, presentavano Miguel Bosè e Gabriella Carlucci. Allora il presentatore era proprio un presentatore, il direttore artistico era qualcun altro, nella fattispecie Marco Ravera, figlio del compianto Gianni, che era stato un po' il patron, l'organizzatore principe del Festival della Prima Repubblica, si può dire, il Festival della Prima Repubblica, certo. Prima di Baudo, prima del che poi Baudo c'era anche nella Prima Repubblica, però negli anni 90 dà il suo imprinting al Festival che poi conosciamo tutti noi. Quindi 1988, 26 concorrenti. Esatto. In realtà 26 finalisti c'erano stati anche nell'83, e qua i costituzionalisti del Festival hanno aperto una serie di dissindo, perché era una categoria unica il Festival di Sanremo. Poi c'erano due gironi, il girone dei big, si chiamavano già big, e il girone delle nuove proposte. In realtà concorrevano insieme, perché alla fine, poi dopodiché, i big erano tutti finalisti, le nuove proposte attraversavano due serate eliminatorie, avevano una wild card, e poi dopodiché c'erano 26 finalisti. Quindi io ho adottato il criterio di considerare tutto quello che arriva prima del 1984 come una sezione unica, variamente articolata. Uh-huh. Altri dicono no, quelli i big erano solo 18, quindi ci sono delle differenze lessicali. Però d'altra parte, io come spiego, Macron è il Presidente della Repubblica in Francia e fa certe cose, Mattarella è il Presidente della Repubblica in Italia e ne fa altre, però insomma sempre il Presidente della Repubblica, certo, sono, quindi... Certo, no, giusto, è un distinguo che è giusto, però, perché poi arrivano altri storici che dicono no, questo è il distinguo di Eddie, e io, per me Eddie fa Cassazione. Eddie, si dice il Festival dei Giovani, siamo a un record di... età, cioè ormai andando avanti con gli anni arrivano quelli nati negli anni 2000. Grazie al cielo, perché voglio dire, anche nel 1961 arrivavano i giovani tutti di un colpo, no? Ci fu un gradone e il festival si svecchiò, arrivarono i nati negli anni 30 e i nati negli anni 40, insomma, cioè, cominciò a partecipare Gino Paoli, Adriano Celentano, Mina, Edoardo Vianello, e i giornalisti allora ben diversi da quelli di oggi, che festeggiano, ho visto con grande entusiasmo invece i colleghi l'arrivo di questa nuova generazione a Sanremo. Invece i giornalisti degli anni 60 dicevano troppi giovani, cosa sono tutti questi urlatori. Poi allora si cominciavano ad esserci cantautori, la gente deve cantare bene, non scrivere le canzoni che canta. Insomma, ci fu un po' di scandalo nel 60 e soprattutto nel 61, tant'è vero che dal 62, col ritorno di Gianni Ravera, diventarono più cantanti e Sanremo attraversò una restaurazione di un paio d'anni, che poi non riuscì, perché lo stesso Ravera dovette, come si dice, aprire alle nuove tendenze con un'altra infornata di giovani, i minorenni del 64. Adesso ci sono invece appunto quelli nati nel 2000-2001, giovanissimi? Non avevano mai partecipato fino ad ora nella sezione principale del Festival dei nati negli anni 2000. L'unica partecipante al Festival di Sanremo in concorso, nata negli anni 2000, era stata finora Tecla Insolia, damigella d'onore, seconda classificata della sezione nuove proposte l'anno scorso. Quest'anno arrivano, credo che siano 5, perché ci sono 3 Maneskin, Madam e Random. Allora, voglio sapere cos'è la... No, no, la maledizione non mi piace, perché sembra una cosa brutta, però che cos'è la... Dai, diciamo la maledizione, ma scherzando, di Arisa, perché... Allora, dopo Arisa, dopo di me sono uomini. Cioè, basta, l'ultima donna a vincere, dopo di me il diluvio, a Premualio degli Uli, esatto. Basta. Allora, prima lei ha vinto le nuove proposte, si chiama Proposte 2009 la sezione, quell'anno nel 2009... la debuttante assoluta. Dopo di lei la sezione nuove proposte giovani 2011, come si è chiamata, ha visto vincere solamente artisti maschili. L'unico anno che non si trasforma in una preselezione invernale che mandò due persone al festival, i due selezionati furono Einar e Mahmoud, due uomini. Arisa vince il festival, poi si afferma tra i campioni nel 2014, e dopo abbiamo avuto tre uomini il volo nel 2015, quattro uomini il volo nel 2016, un uomo, Gabbani, e una scimmia nel 2017, certo. Pure uomo comunque era la, cioè, la scimmia era uomo, sì. Due uomini nel 2018, Meta e Moro, un uomo nel 2019, Mahmood, e un altro uomo nel 2020. Che è stato Diodato. Quindi c'è stato un filotto di artisti maschili dopo Arisa, e un filotto di 10-11 vittorie consecutive per artisti maschili nelle nuove proposte. Quindi le signore, ecco, le signore sono avvertite, devono rompere questo tabù di Arisa, o magari rivincere lei, che così siamo a posto. Qual è, Eddie, vediamo se sei preparato, il titolo più ricorrente tra i titoli delle canzoni del Festival di Sanremo? Il titolo più ricorrente tra le canzoni del Festival di Sanremo quest'anno non è in gara. No. Ed è Vorrei. Vorrei, beh, ci sta, Vorrei. Parla di desideri. Vorrei che quest'anno invece c'è Ora, che arriva al secondo posto. Dora Moroni. Esatto, Dora Moroni e Renzo Rubino. Ah certo, è vero. Dora Moroni e Renzo Rubino. Ora si affianca a Serenata e a Sei Tu, portati appunto in gara tre volte da tre artisti diversi in tre anni diversi, appunto al secondo posto di questa Serenata. Secondo me sarà difficile che ne arrivi, cioè no, non ce ne sarà. Eppure ce ne sono tre. C'è un'altra statistica, che è il nome di uomo. Sì. Quest'anno abbiamo il terzo Luca, e quindi Luca diventa il nome di battesimo. Il nome di battesimo arriva, insomma, raggiunge Monica e Elisa, perché molto spesso le canzoni si chiamano con un nome di battesimo o hanno un nome di battesimo del titolo. Gli altri Luca erano a casa di Luca di Silvia Saleni, e Luca era gay di Povia, quindi adesso io sono Luca dei gemelli Bellai. Ok, dai, ultima curiosità che ti chiedo. Allora, ci sono, con grande gioia nostra di RadioTube, i nostri amici Extraliscio, che sono stati una sorpresa per tutti, nessuno li conosceva. Gli ascoltatori di RadioTube li conoscono bene, perché sono sempre stati i nostri ospiti. È la prima volta che c'è il Liscio a Sanremo? Allora, il Liscio no, perché nel 1974 partecipò niente poco di meno che l'orchestra spettacolo Raul Casadei, anche se purtroppo non riuscì a passare il primo turno. Nel 1965 poi mi hanno detto che c'era stato anche Eli Neri e il suo complesso, che era appunto un orchestrale che aveva la guida di un complesso, tant'è vero che l'anno dopo venne a dirigere l'orchestra con la sua formazione orchestrale, ma la canzone non era propriamente una canzone di Liscio. Quindi l'unica canzone di Liscio si chiama La Canta, la cantava l'orchestra spettacolo Raul Casadei, della quale poi Mirko, il biondo degli Extra Liscio, ha fatto parte. Moreno il biondo. Mirko è il nipote di Raul. Certo. Ho fatto confusione tra band di Liscio, e niente, dovevano rappresentare uno degli eventi del festival. Uno degli impresari del festival, Vittorio Salvetti, li portava in palmo di mano, eppure non riuscirono a passare il primo turno. Poi dopo loro ripartirono, perché il giorno dopo avevano una serata, provarono a richiamarli, c'era l'austerity, quindi partirono prima di mezzanotte, c'era il coprifuoco anche allora, anche nel 74, per motivi diversi, e invece poi dopo mandarono addirittura un elicottero dello stradale per recuperare l'orchestra a casa. E poi dopo dissero il regolamento non si cambia, straordinario. Mirko, figlio di Raul Casadei. Sì, Mirko, figlio di Raul Casadei. E invece Mirko Mariani e Moreno il biondo dell'Extraliscio. Troppe cose abbiamo detto. Eddie, io ti ringrazio, ti auguro tantissime buone feste, e poi ovviamente nella marcia di avvicinamento a Sanremo ci sentiremo un sacco di volte. Grazie Eddie, un abbraccio. Ma è così lunga, perché mancano 2 mesi e mezzo. L'anno Pazzesco. Scorso solo 4 settimane avevamo tra l'annuncio e il festival. Quest'anno abbiamo un sacco di tempo. Grazie Eddie Anselmi, a presto. Grazie Marta. Con un ritardo imperdonabile, ma queste statistiche di Sanremo ci piacciono moltissimo. Diamo la linea alla viabilità. Radio Tube Social Village. Anche quando poi saremo stanchi, troveremo il modo per navigare nel buio, che tanto è facile abbandonarsi alle onde che si infrangono. È uscito 2 settimane fa ed è già alla 5ª ristampa. Stiamo parlando di Let Them Talk. Ogni canzone è una storia, che è il libro autobiografico, ma non solo, di Cesare Cremonini. Bentornato Cesare, ciao! Ciao Marta, grazie, grazie, sono felice di essere tornato da te. Cesare, che bello risentirti. Certo, era più bello quando ci vedevamo, adesso dobbiamo sentirci solo a distanza, speriamo di ritornare presto a una situazione più normale. Sì. Sono contenta di parlare di questo libro perché mi capita spesso di avere tra le mani autobiografie, biografie di artisti, ma tu hai deciso di raccontarti in maniera molto diversa. Mi racconti lo spirito di questo libro? Sì, sono io stesso stupito, nel senso che ho iniziato a scrivere questo libro senza la volontà di fare una vera e propria biografia. Volevo che le canzoni mi ricordassero chi sono. Quindi ogni canzone accende la luce su un periodo, e ho iniziato a esplorarmi, ho iniziato a esplorare persino cose di cui non mi ricordavo più. Sono le canzoni che mi parlavano. Let Them Talk, il titolo del libro, proprio l'ho scelto per questo motivo, e poi ho lasciato che le canzoni viaggiassero e raccontassero una cosa che per me è ancora più importante della mia parte biografica, e cioè il fatto che il linguaggio, le nostre abitudini, quello che ci succede ovviamente è molto soggettivo, cambia da persona a persona, ma l'arte, la musica, le cose che si creano invece si parlano nei secoli, nei decenni, parlano al passato e al futuro, quindi sono collegate l'una all'altra, un po' come delle vite, però ne sono nell'aria, sono nella nostra mente, e questo fatto, che si avvicina un po' alla fisica quantistica scherzandoci sopra, mi sembrava molto più interessante, diciamo, della mia semplice biografia. Riuscire a raccontare la vita attraverso 2 binari paralleli, quelli della musica, quindi della creatività, e quelli ovviamente dei giorno dopo giorno, delle esperienze personali. Io non sono soltanto un cantante, sono un uomo, e se oltre a un uomo sono davvero un artista, questo fa un artista. Getta su un foglio quel che percepisce come imminente, senza sapere quando e per chi accadrà. Esatto. Tu ti interroghi subito sul ruolo, sulla funzione, sull'essenza dell'artista. Sì, ma fin dalla prima infanzia, nel senso che io ho sempre sognato di fare l'artista nella vita. Quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, non dicevo il cantante, no? Lucio Dalla diceva che la parola cantante gli ricordava la parola campanello e quindi non gli piaceva. Io ho sempre pensato da piccolino che avrei voluto fare l'artista nella musica, ovviamente, però sono sempre stato molto onesto da questo punto di vista. Quando mi è scoppiato fra le mani il primo successo, avevo 18 anni, ho pensato subito che non sarebbe stato quello a fare di me un artista. Sicuramente non per la coscienza popolare, per quello che pensa il pubblico, che è sempre molto importante, è uno specchio per chi fa il mio mestiere. E quindi ho deciso di attraversare la mia vita musicale puntando su una cosa che la discografia spesso si dimentica, ma è fondamentale, cioè la credibilità, che è una strada molto molto più lunga, molto più difficile, molto più complessa, e che ha necessità di tempo, di pazienza, ha necessità anche di errori, ha necessità di stare fermo, di creare dischi come Maggese, che venivano dopo tempi di semina, ha bisogno anche forse di mettersi in gioco in un modo in cui può anche toglierti tanto, oltre che darti molto. E questa è un'esperienza che forse questo libro cerca di raccontare in qualche maniera, perché è un'esperienza che oggi nella narrazione di che cos'è fare un cantante, che cos'è fare l'artista, spesso manca. La sensazione è che la tua vita sia sempre su un ottovolante. Quando tu racconti di un tuo incontro con Gianni Morandi, dici: la mia carriera, che era in costante ascesa ma per niente consolidata. Questo tuo sentirti mai del tutto consolidato è una grande forza, anche se una grande fragilità. Sono felice che tu riconosci in questa particolarità della mia esperienza come musicista una cosa che mi ha sicuramente corroso un po', no? Affaticato, ma ha anche dato tantissimo, perché in fin dei conti una iperproduzione di canzoni che oggi sono la base sulla quale poggio tutta la mia vita e anche il mio futuro come musicista, e sono tante quelle che ho avuto la fortuna di far diventare, grazie al pubblico, conosciute. È una cosa ormai rara, no? Questa, avere un repertorio. Oggi sono pochi gli artisti che possono dire di avere un grande repertorio. Questa è una grande, grande fortuna. È nata da una sensazione di insoddisfazione perenne, di una fragilità perenne della mia carriera. D'altronde io ho iniziato quando avevo 18 anni, ho avuto un grandissimo successo con delle canzoni che sono diventate così tanto importanti, sono ancora oggi molto molto conosciute, 50 special, qualcosa di grande, canzoni che avevo scritto sui banchi di scuola, e poi mi sono preso sulle spalle il ruolo del cantautore senza averne ancora ovviamente nessun tipo di muscolatura, e mi sono confrontato con quel mondo sapendo che dovevo ripartire da zero. Questa esperienza mi ha fatto attendere 15 anni prima di riuscire a tornare, diciamo, più centrale in quello che stavo facendo nel mondo della musica italiana, con possibili scenari, col disco del 2018, con la prima volta negli stadi. Ho ricucito un po' tutti i pezzi della mia vita e ho capito che aveva tutto un senso, che aveva tutto avuto un significato, però è stato un lungo viaggio, sì, veramente un lungo viaggio. Parlare così tanto di te stesso, anche delle tue debolezze, che io preferisco non trattare in questa intervista solo perché un'intervista radiofonica ha dei tempi talmente rapidi che invece certe pagine meritano di essere lette, decantate, non voglio banalizzarle, ma raccontare tanto di te ti ha fatto male o ti ha fatto bene? Non mi ha fatto né male né bene, a dire vero, Marta, nel senso che quando tu vivi costantemente con qualcosa, ognuno nella propria famiglia, nella propria vita può aprire il pentolone e raccontare un'esperienza diversa e tutti dovrebbero stare sempre ad ascoltare, quindi non c'è una differenza fra chi fa l'artista e chi non fa l'artista, come a volte ho letto. Però chi vive con delle pagine buie costantemente da quando è piccolo, poi anche per parlarne diventa quasi un atto naturale, non ho fatto nessuno sforzo. Mi ha fatto bene, non credo che mi abbia fatto bene, le cose con cui devi convivere rimangono. Io ho voluto ricucire un pezzo della mia vita con le mie canzoni, perché a un certo punto sentivo di poter andare in frantumi se non lo facevo. Oggi sono semplicemente più vicino, anche nell'immagine che do alle persone che mi seguono, a quello che sono stato e che sono, ma non ho potuto raccontare, magari un giorno lo farò, ma non ho potuto raccontare ovviamente tutto. Ho semplicemente fatto vedere che la narrazione di me fino a questo punto era incompleta, fin troppo incompleta, tutto qua. Cesare, dopo aver letto questo libro, quando finisci di leggerlo, non hai la sensazione di aver conosciuto tutto di Cesare Cremonini, hai la sensazione che Cesare ti abbia aperto una porta, cioè ci hai suggerito anche un sacco di libri, un sacco di film, un sacco di musica, tutte le cose che ci possono aiutare a conoscerti meglio. Hai davvero aperto una porta sul tuo mondo? Sì, è una porta che secondo me poi abbiamo tutti, che parla, come dire, a stanze e a labirinti, che alla fine spero che un giorno, come dire, portino anche me da qualche parte, nel senso che qualcuno in radio pochi giorni fa mi ha detto: ma tu conosci così tante cose di te? No, io non ne so niente di me, mi ha detto, no? Perché mi analizzo continuamente, ma io sono sempre stato concentrato dentro di me e molto molto deconcentrato fuori, cioè mi puoi vedere per strada e pensi questo qui è la testa fra le nuvole, invece sono molto molto concentrato all'interno di me, perché mi vedo come un labirinto, e quindi anche scrivere canzoni poi è la stessa cosa. Io ho scritto questo libro cercando che avesse un suono, per dire, no? Una cosa che faccio solitamente con le canzoni, perché l'approccio è stato lo stesso, cercare di guardare dentro e perdersi. Non è un libro per trovarsi, questo qualcuno ha detto che è un libro di formazione, no? Io l'ho definito, almeno da solo lo definisco come un libro di deformazione. Mi piace molto, anche se sappi che ormai l'immagine che conservo di te è quella del contadino enigmista. Sì, siamo, poi io sai vengo per ridere, perché vengo da una Bologna piuttosto bucolica, piuttosto contadina, come poi tantissime persone italiane, no? Noi siamo un popolo che spesso e volentieri ha i propri avi già dal nonno, qualcuno che era nei campi, e quindi questa sensazione di contatto con la terra e di una riflessione che poi diventa più adulta, grazie al tempo che cambia, le cose che oggi ci permettono di fare una vita molto più cosciente, è molto più scientifica, ecco. Si mischia con delle tradizioni, con delle sensazioni che poi invece sono la nostra tradizione. E questo è un po' l'approccio anche che ho alla vita io. Sono molto legato, per dire, all'idea delle stagioni, alla loro lentezza, alla loro osservazione, ma poi sono anche un ragazzo che va alla velocità della luce da quando è un ragazzino, no? È questo contrasto molto grande fra il passato e il presente che è diventata parte stessa della mia poetica, delle mie canzoni. È stata una bella avventura leggere questo libro, Cesare. Grazie per averci dato la possibilità, insomma, di conoscerti meglio. Grazie a te, Marta, sono felice di averti sentita, perché era tanto tempo che non ci sentivamo e poi era tanto tempo che non possiamo venire in radio a parlarci, a guardarci, perché è sempre stato bellissimo incontrarti. Quando succederà che ci rivedremo davvero? Grande festa, te la meriti. Let Them Talk, ogni canzone è una storia, edito da Mondadori, di Cesare Cremonini. Grazie per essere stato con noi, Cesare, un abbraccio. Ti abbraccio fortissimo. Ciao. Grazie, grazie, un bacio grande. Radio Tube Social Village. One more sunrise, one more empty sky. Though she's gone, I will stay counting days till September. Sorge il sole sui miei giorni e tu sei via da qui. Pregherò, vieni settembre, lunghi giorni d'estate mi rattristano un po', piove dentro di me un deserto che so. Trace a perfume. Questa è Settembre, anzi September, ed è un duetto, li avete ovviamente riconosciuti, tra Sting e Zucchero. Zucchero che è uscito questo fine settimana, è uscito venerdì, con un album che si intitola Doc Deluxe Edition, cioè la versione del suo ultimo album Doc, arricchita da alcuni nuovi brani, 6 nuovi brani, tra cui questo nuovo September. Ma come mai non fare del tutto un nuovo album, ma una versione deluxe di Doc? Ce lo ha spiegato lo stesso Zucchero. Doc, come ho detto a suo tempo, è un album dove in ogni canzone, anche se velato, usando doppi sensi, c'è un inizio di redenzione, quasi, cioè c'è qualcosa. Parlo sempre di luce, parlo sempre di una scia che sto cercando. C'è una canzone, per esempio, Tempo al Tempo, dove dico proprio quella che ho fatto con De Gregori, io ti sto cercando. E la stessa cosa ci sono nei brani aggiuntivi. Su September sicuramente, ma anche per esempio su Wichita, su Non illudermi così e soprattutto su Don't Cry Angelina. Gli altri due, e sto parlando di Succede e Facile, facevano parte della rosa dei brani di Doc. Non erano finiti, mancavano i testi, però la produzione e l'arrangiamento erano già stati fatti durante la lavorazione di Doc. Ecco, quindi è una conseguenza di Doc. Uno potrebbe dire, potevi fare Visto che c'eri, facevi un altro album, ma tu lo sai che, cioè, penso che l'abbiate, che lo sappiate, che io non, a me non piace fare un album uguale all'altro, con gli stessi suoni, con la stessa produzione, con la stessa matrice, diciamo. Un album è sempre diverso dall'altro. Quindi adesso finisce il capitolo di Doc, il prossimo album sarà un'altra ricerca, un altro viaggio. Succede, eccolo, è uno dei brani di questo Doc Deluxe Edition. Abbiamo sentito prima September, cioè questo duetto con Sting. Ma come mai Zucchero e Sting sono così amici? Ecco Zucchero. Abbiamo fatto diverse cose, Rainforest Foundation per 3 volte a New York, abbiamo fatto un suo tour dove io ero ospite in varie date. Poi già avevo fatto Muoio per te insieme a lui qualche anno fa e ci siamo sempre trovati quando lui viene in Italia o quando io vado a New York. Quindi più, come ho già detto, ha deciso di farmi padrino di sua figlia Coco e quindi insomma ci sentiamo spesso. È venuto a Pontremoli quest'estate. Siamo fermati in un bar a bere, a prendere un gelato perché voleva un gelato e ovviamente è andato su tutti, è andato ovunque questa foto qua fatta da quello del bar, ovviamente. Ma ripeto, non so ancora perché, cioè adesso lo so, ma fino a poco tempo fa non gli avevo mai chiesto perché avesse deciso il primo giorno che mi ha visto di fare il padrino di sua figlia. Adesso mi ha detto che ha visto, che ha sentito che ero una persona coi piedi per terra, genuina, diretta e buona. Questo è quello che mi ha detto. Quando abbiamo girato il video di September, lui l'ha voluto girare alle 6:30 di mattina e chiaramente per me era un problema perché io mi alzo all'1. Lui invece è abituato ad alzarsi molto presto perché mi ha detto che quando era piccolo, prima di andare a scuola, doveva aiutare il padre che faceva il lattaio a consegnare il latte. Per cui era abituato ad alzarsi verso le 5:30, 6. E ha continuato a farlo anche adesso. Il problema è che io sono stato rincoglionito per 3 ore durante il video e probabilmente si vede anche. Lui invece si è alzato, abbiamo cominciato alle 6:30 puntuali, però lui ha fatto mezz'ora di piscina all'aperto adesso a ottobre, prima, per tonificarsi, capito? Per me è roba allucinante, per me è roba assurda, non succederà mai. Giordano mi vedrai danzare spirito nel buio, brillanti nell'oscurità, come una festa in paradiso, gioia nel mondo a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio, senti il tuo cuore adesso. ascoltiamo dei pezzi di Doc. Adesso c'è questo Doc Deluxe Edition di Zucchero. Abbiamo capito perché ha fatto questo album, questo duetto con Sting, ci ha raccontato Zucchero della loro amicizia. Ma come ha passato questo periodo, questi mesi difficili con la pandemia, con il confinamento, con il lockdown, insomma? Ecco, ha raccontato Zucchero come ha passato questi periodi di grande creatività, in realtà. Ecco qua. Devo dire che proprio dire grazie a questa pandemia è oltraggioso, ma per via di questa pandemia ci siamo sentiti di più del solito. Infatti, per esempio, abbiamo fatto una cosa insieme con Bono della sua canzone che aveva dedicato anche all'Italia, no? Soprattutto all'Italia, che l'ho fatta davanti al Colosseo. Mi sembra che fosse aprile, giù di lì, per il cinquantennale della Terra. Poi ho fatto insieme a Michael Stipe quella bellissima canzone che qui in italiano è diventata Amore Adesso, chiaramente basata sulle sue parole in inglese, che adesso non mi ricordo bene il titolo, comunque, che ho fatto a Venezia in una piazza San Marco completamente vuota. Quindi poi la cosa con Sting, quella cosa su One Together organizzata da Lady Gaga. Ho fatto anche altre cose che voi non sapete, ma che usciranno a breve, cose per esempio sul disco di Otei, il chitarrista giapponese. Abbiamo fatto un brano insieme che è uscito in questi giorni, lo vedrete tra un po'. Poi ho fatto una cosa che uscirà in tutto il mondo, fatto Silent Night, l'ho fatta diventare una ballata di pace e di speranza, che uscirà anche questa sotto Natale. Direi che questo momento sospeso ha favorito anche per gli altri artisti, che hanno, anche loro stanno soffrendo, anche loro sono lì a casa che si inventano delle cose pur di stare attivi. Quindi ha favorito questi scambi e queste vecchie conoscenze che si sono rinnovate. Radio Tube Social Village. E adesso facciamo un salto indietro nel tempo. In questa prima ora di Radio Tube Social Village abbiamo parlato tanto di musica, perché abbiamo parlato con Cesare Cremonini, che è uscito con la sua autobiografia, quindi abbiamo parlato di musica e anche di un libro. Adesso abbiamo incontrato Zucchero, o meglio, abbiamo incontrato qualche giorno fa Zucchero, abbiamo ascoltato questo incontro. In apertura avevamo commentato le statistiche che ci suggeriva questo cast del nuovo Sanremo, quindi televisione e musica. Adesso parliamo davvero di televisione, ma anche della storia di tanti di noi. Quanto ci piace andare a vedere le immagini della televisione del passato? Ad esempio, su questo si fonda il successo ogni estate di Te che te che te, che tiene incollati al televisore o a un altro schermo tantissimi italiani. Insomma, le teche televisive parlano di noi e del nostro passato, però siamo abituati a vedere le teche della Rai o immagini di repertorio di Mediaset. Ma per chi, insomma, ha, diciamo, più di 30 anni, ma sì, dai, più di 30 anni, più di 35, ci sono anche altri ricordi, ci sono i ricordi delle televisioni private. È una miniera di ricordi che ci legano un po' al territorio. Ognuno di noi è cresciuto in alcune zone che avevano, appunto, fino agli anni, alla fine degli anni 80, magari i primi anni 90 addirittura, delle televisioni private. I lombardi, ma anche i piemontesi, i liguri, perché sto parlando di una realtà che era molto nota nel nord Italia, ricordano ad esempio, dai, prima di citarvi la televisione, mi farei sentire un pezzettino di una canzone che sicuramente a chi è stato nel nord Italia all'inizio degli anni Ottanta, una canzone che susciterà molti ricordi. Eccola qui. Lo sai che puoi scherzare coi fantini non coi santi. Lo sai che dentro il tuorlo di pulcini non ce n'è. Lo sai che la gallina si consuma coccodè. Lo sai che di nascosto non ti devi mai toccare. Lo sai che sulla bocca non mi devi mai baciare. Lo sai che il formichino va lasciato lì dov'è. Il pino cresce alto ma di pigne non ce n'è. Lo so, non lo sapessi ma lo so. Lo so, non lo sapessi ma lo so. Lo so, non lo sapessi, ma lo so. Lo so, non lo sapessi, ma lo so. Allora, lo so, non lo sapessi, ma lo so. Era la sigla, avete riconosciuto probabilmente le voci, di Teo Teocoli e di Massimo Boldi. Era la sigla di una trasmissione di successo di questa televisione che si chiamava Antenna 3. E adesso è nato questo sito ricchissimo che racconta tutta la storia di Antenna 3, ma anche che ci porta a vedere un sacco di immagini d'epoca. Adesso capiamo perché sono così divertenti e così interessanti con l'anima di questo sito, l'anima dell'associazione che è quella degli amici di Renzo Villa che porta avanti questo sito ed è anche una mia carissima amica, lo dico prima, svelo anche il conflitto di interesse. Benvenuta a RadioTube a Wally Giambelli, ciao Wally! Grazie, hai fatto bene a dire che sono una tua amica perché mi sarei stata in imbarazzo. Ecco, no, io sono per la trasparenza, Wally. Anch'io. Allora, facciamo un passo indietro perché ovviamente ai Lombardi tutto questo sarà molto chiaro. I Lombardi, ma come dicevo, anche parte del Piemonte, della Liguria, perché Antenna 3 era molto forte. Stiamo parlando di un'avventura imprenditoriale un po' da pazzi, di quelle che succedevano tra la metà e la fine degli anni 70. Un signore che si chiamava Renzo Villa, che peraltro era anche tuo marito, così, ma per caso, cioè proprio sì, per caso. È una coincidenza. Cosa aveva costruito? Aveva costruito la televisione privata in Italia via etere. Non si poteva? non si poteva assolutamente. E lui nel 1975, quindi parto un filino indietro, un pochino prima di Antenna 3, in una piccola televisione, cioè fondò una piccolissima televisione a Busto Arsizio che si chiamava Telealto Milanese, anche qua penso che i Lombardi se la ricordino bene, e questa televisione trasmise per la prima volta via etere, si appropriò dell'etere che era appannaggio totale della Rai all'epoca. Quindi insomma una piccola forzatura, un una po' forzatura, di guai, sì. Perché sappiamo che insomma non fu indolore questa apertura all'emittenza privata, però di fatto venne costruita questa realtà, questa Antenna 3. La particolarità di Antenna 3 è che era davvero un laboratorio, cioè tante personalità che magari erano uscite dalla Rai e che per la prima volta facevano qualcosa di nuovo. Chi erano i grandi protagonisti di Antenna 3, oltre a tuo marito Renzo, che non solo era il patron, ma era anche un conduttore famoso? Guarda, allora, il primo nome in assoluto è Enzo Tortora, perché Enzo Tortora visse questa avventura, questa impresa per ben 4-5 anni, lavorando a tempo pieno in Antenna 3, conducendo delle trasmissioni naturalmente di successo e naturalmente a modo suo, cioè improntate a quello che era lui, e quindi diciamo che Enzo Tortora è stato il top. Poi ci furono per esempio Lucio Flauto, che aveva dei grandi precedenti come attore di varietà, aveva lavorato con Van Dosiris, aveva fatto dei film, ma trovò in quello spazio enorme che era lo studio 1 di Antenna 3, che conteneva 1.100 persone, 1.200, 1.300 nelle sere migliori, nelle sere più affollate, trovò veramente la sua platea e diede veramente vita e diede libero sfogo alle sue grandi capacità. E poi i comici? Comici che iniziarono, cioè diciamo che per i comici fu un discorso diverso, perché a differenza, cioè, beh, a parte Lucio Flauto che era già conosciuto in zona, eccetera, i comici arrivavano dal Derby, che era quel locale milanese che Renzo amava moltissimo, abbiamo frequentato tantissimo, per cui li ingaggiò da lì e iniziarono ma personaggi come, vogliamo parlare di Boldi, come ho sentito prima, di Teocoli, Faletti, Zuzzurro e Gaspare, Ossario che era Armando Celso, guarda, quasi non mi vengono i nomi. Poi ci fu la collaborazione per tanti anni con Gerry Bruno, che era una colonna dei Brutus, quindi artista internazionale di grande livello che fece veramente grandi trasmissioni anche lì. Poi, se vogliamo parlare della bustarella, parliamo della bustarella. Della bustarella, che era, per chi non lo sapesse, una trasmissione di giochi, a volte anche un po' osé. Però, all'acqua di rose. Sì, certo, erano i primi segni di ragazze, tra virgolette, normali, perché le miss della bustarella erano ragazze delle nostre città, dei nostri paesi, e partecipavano a questi giochi paesani, che però avevano anche una grande struttura, perché il primo anno forse erano giochi paesani, ma poi Poppi Perani, che era l'autore dei Giochi Senza Frontiere, collaborò con Antenna 3, perché lì non ci furono solo artisti, ci furono anche grandi registi. L'esordio di Beppe Recchia, Allora, Wally, però io devo dare un compito a tutti a questo punto, mentre ti saluto. Bisogna mandare tutti a vedere la storia di Antenna 3, perché ci sono, c'è la Nastroteca, ci sono le sigle, c'è il documentario e il sito è viaperbusto15.it, perché era l'indirizzo, viaperbusto15.it, e andate a scoprire questo patrimonio immenso, gli esordi dei comici, qualcosa di straordinario. Wally, ti devo ringraziare tantissimo, ti abbraccio forte. Io ringrazio. E vabbè, poi io e te ci sentiamo, perché ci abbiamo come sempre da spettegolare. Certo. Grazie a Wally Giambelli. grazie, ciao, Wally. Grazie mille. Via per busto 15.it, andate a immergervi in questa storia affascinantissima. Ci troviamo dopo il giornale radio.